Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati a Dietro la Notizia, Radio 24. Oggi abbiamo ospite Antonio Polito, direttore del Riformista. Buongiorno direttore. Buongiorno a te. Il Riformista da 3 giorni esce in una nuova veste grafica, più pagine, 24 pagine, e vuole essere un giornale come gli altri. Qual è il primo bilancio di questi 3 giorni? Ha avuto il gradimento del pubblico e della critica, Polito? Beh, intanto è proprio un giornale nuovo, nel senso che è cambiato tutto, non soltanto la foliazione, siamo a 32 pagine, ma anche il fatto che ci occupiamo di tutta la gamma dell'informazione, dalla cronaca allo sport, all'economia, alla cultura, mentre prima eravamo un giornale così di politica, era un foglio più che un giornale, è un vero e proprio giornale, come hai ben detto, e devo dire che abbiamo avuto il primo giorno un grande successo di pubblico e anche di critica, nel senso che ho letto molti articoli che hanno colto la novità, insomma noi siamo molto soddisfatti e speriamo di reggere questo livello. È un giornale in più, certamente aiuta il dibattito, aiuta la democrazia, aiuta il confronto delle idee. Invito proprio per un confronto di idee anche gli ascoltatori a chiamare all'800 24 00 24. Oggi hai fatto una scelta, come penso che farai spesso, di fare un titolo di apertura diverso dagli altri giornali. Gli altri giornali parlano di due temi essenzialmente: l'allarme sulla recessione di Draghi e le manifestazioni della scuola, le contestazioni alla riforma della scuola. Tu apri con un grande titolo, anche se la scuola è comunque in un piccolo riquadro, in apertura, però il titolo più grande è Salvate il PD, salvate il Partito Democratico, con anche un tuo articolo di fondo. Perché questa scelta? Ma guarda, io sono un po' infastidito dal fatto che in Italia, unico paese europeo per quanto mi risulti, tutti i giornali aprono sempre nello stesso modo, cioè hanno tutti gli stessi titoli in prima, sembrano fatti con la fotocopiatrice. Secondo me un giornale ha senso se fa un suo discorso con i lettori, gli segnala ciò che è più importante, ciò che più anticipa ciò che sarà più importante, e segnala, per esempio noi ieri abbiamo aperto con una notizia che i giornali italiani hanno trascurato, cioè la volontaria britannica uccisa in Afghanistan, sì, perché cristiana, no? A sì, me uccisa perché cristiana mi sembrava un fatto più importante di tanti altri che abbiamo letto. Oggi apriamo con questo mio articolo che dice salvate il PD, nel senso che sono molto preoccupato per lo stato dell'opposizione e non tanto e soltanto per la situazione, diciamo, del PD, ma perché una democrazia con un'opposizione debole, fragile, è sempre una democrazia zoppa. Allora, siccome il PD ha deciso che perché il suo ricostituente, la manifestazione di sabato, per quanto noi abbiamo molto criticato sia quella manifestazione che la dirigenza del PD, il mio appello oggi è di farla riuscire quella manifestazione, perché è l'unico modo di tenere in vita un'opposizione autorevole e credibile. In fondo è l'unica opposizione che abbiamo, sì, si può dire, e infatti voi difendete un po' questa manifestazione, pur se nell'articolo critichi, anzi dici che proprio tu con il Riformista versione precedente, che però come linea politica non dovrebbe essere cambiata, hai criticato fin dall'inizio molti punti della campagna elettorale, per esempio la qualità della leadership, la linea ondivoga alle divisioni interne del Partito Democratico. Ecco, quindi una difesa del PD, però è un giornale che oggi per esempio ha di spalla un articolo di Renato Brunetta. Renato Brunetta, lo ricordo, lo sanno tutti, è un ministro di questo governo, di centrodestra. Allora è un giornale anche per il dialogo, Antonio Polito? Ma è un giornale sulle cose importanti, sulle cose che veramente contano. Brunetta ieri mi ha proposto un articolo per spiegare perché secondo lui e secondo il governo italiano il piano europeo sul clima e sull'ambiente non funziona e può essere un danno per l'economia del nostro paese. Siccome è un articolo serio, pieno di informazioni, dati e ragionamenti, io l'ho ospitato molto volentieri in prima pagina, non perché è fatto da un ministro del governo di centrodestra, ma perché è un articolo serio, è un articolo dove pone questioni serie. Spero che l'opposizione risponderà domani con un articolo altrettanto serio con le sue posizioni. Cioè, ciò che è importante in questo paese è di andare un po' a fondo delle cose e vedere quello che serve al paese, piuttosto che chiedersi ogni volta giova a me, giova a te, è una cosa buona per quello. Quindi non è neanche tanto un giornale del dialogo, è un giornale aperto, un giornale che discute i problemi in maniera aperta. Questa è un po' la mia idea. Ecco, abbiamo un SMS. Carlo ci scrive: ma con questo governo il dialogo è difficile, se non impossibile, se non inutile addirittura. Cosa rispondiamo? Ma è un problema, questo è un problema che deve scegliere l'opposizione, non è questo il punto. Io dico, questo governo oggi gode di un consenso popolare molto ampio, forse dovuto anche a circostanze eccezionali, perché la crisi del finanziaria, la paura per i propri risparmi spinge sempre le opinioni pubbliche a raccogliersi intorno al governo, succede anche in altri paesi europei. E diciamo, che cosa vuol dire non dialogare col governo da parte di chi sta all'opposizione? Non vuol dire nulla, cioè bisogna dialogare col paese. Siccome un 70% di quel paese sostiene sostanzialmente il governo, forse varrebbe la pena di capire perché, se uno vuol fare opposizione. Non è, ripeto, non è compito mio, ma certo io come giornale voglio ragionare anche con le ragioni di chi oggi sostiene il governo Berlusconi. C'è un altro SMS di Antonio da Padova che dice: ma allora, se ci sono dei giornali che si rinnovano, ne abbiamo parlato anche ieri peraltro con Mario Giordano, direttore del Giornale, che anch'esso ha fatto una piccola rivoluzione grafica, e dice appunto questo SMS: se i giornali si rinnovano vuol dire che si può avere ancora fiducia nel futuro della stampa. Cosa ne pensa Antonio Polito? Ma la stampa vive un periodo molto difficile in tutto il mondo, dovuta alla concorrenza di internet e della televisione, però questa concorrenza, diciamo, un po' la zappa sui piedi se la dà la stampa, perché se sui giornali ci sono tutte le notizie di ieri che tutti già conoscevano e poche idee, poche novità e poca brillantezza anche, poca battaglia culturale delle idee politiche, certo che la stampa muore. Quindi i giornali che si rinnovano sono giornali che tentano di uscire da questa crisi in avanti, che è, come dire, il modo che dovrebbero affrontare tutte le aziende. La recessione che tutti temiamo non è altro che quando ognuno smette di fare intrapresa, di fare iniziative, di rispondere in avanti. Quindi i giornali che si rinnovano così, compreso il nostro, io penso che facciano una cosa molto buona. C'è una telefonata in linea, Michele da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi, io faccio la stessa domanda che avrei voluto fare al direttore Giordano ieri, la faccio al direttore Polito. E complimenti per la nuova veste grafica e per le pagine soprattutto che dedica al nuovo riformista. La domanda è molto semplice, a me ed è incidentalmente anche collegata a quello che state dicendo, e cioè mi sembra che questa difficoltà di dialogo tra maggioranza e opposizione, ma comunque nel paese la difficoltà di dialogo anche tra le classi dirigenti, in industria, nell'economia in genere, nei giornali eccetera, sia dovuta al fatto che purtroppo gli interpreti, i principali interpreti, sono ancora i vecchi. Io ho 56 anni, quindi sono sicuramente, non parlo per me, noto che i giovani che hanno la capacità di inserirsi in questi dibattiti e di incidere nella società civile, economica e politica, nei giornali eccetera, sono ancora pochissimi e per di più vengono cooptati dai vecchi, per cui voglio dire, lo scontro tra Veltroni e Berlusconi è così lontano dalla mentalità dei nostri ragazzi che è difficilmente comprensibile, proprio come vi ho detto, vengono usate comunque mentalità vecchie che non dicono nulla di nuovo a questi giovani ragazzi che si allontanano così dalla politica, ma succede secondo me anche nel lavoro, nel mondo del lavoro, dell'economia, dell'industria. Grazie mille, la Michele. La domanda era questa: cosa possono fare i giornali per aiutare davvero i giovani ad imporsi in questo terreno? Grazie Michele per la telefonata. La domanda è anche quella: se la politica in fondo può riformare se stessa, come possiamo aiutare la politica a riformare se stessa, ad essere più aperta. Antonio Polito, direttore del Riformista. Io sono molto d'accordo col vostro ascoltatore che forse uno dei principali problemi italiani è il fatto che si è fermata l'ascensore, no? Sia generazionale sia sociale, cioè è difficile avere successo per un giovane, mentre non è così in altri paesi. Io non voglio citare solo i casi della politica: Zapatero quarantenne, Clinton diventato presidente da quarantenne, Obama è un quarantenne, Blair era un quarantenne quando è stato eletto premier. Penso anche per esempio a tutto il sistema imprenditoriale, cioè imprese, chi sono i dirigenti, quanti anni hanno, ricercatori, l'università. In Italia si diventa ordinario dopo i 50 anni perché bisogna fare un particolare cursus honorum. Questo è un elemento di grande povertà del nostro paese e quello che possiamo fare noi è picconare l'establishment, picconare la gerontocrazia, aprire delle crepe in cui si possano infilare giovani di talento. Grazie Polito, ci fermiamo, se restate in linea, anche un paio di ascoltatori, Andrea e Riccardo, se restano in linea un paio di minuti, sentiamo le notizie sul traffico e torniamo subito con Dietro la Notizia. Tariffa nobile di Dynameeting, l'energia che ti serve, 800 903 900. Vi presenta Che strada fa? Il traffico è in aumento in direzione dei centri urbani e delle aree industriali. Maggiori disagi alle porte di Roma su molti punti del grande raccordo anulare, ma anche in prossimità di Milano sulle principali autostrade. Poi tutte le tangenziali della rete sono trafficate. Sull'area di Genova ci si mettono anche le piogge, ma attenzione perché piogge temporali sono previsti nel corso delle ore su molte aree del centro-nord. E la nebbia invece che crea molti disagi perché non si vede oltre i 50 metri sulla diramazione per Ravenna. 70 metri invece sulla 14 Adriatica tra Poggio Imperiale e Poggia, visibilità ridotta sul tratto appenninico tosco-emiliano della 1 in Umbria e su alcuni percorsi della Campania, anche sul litorale adriatico compreso tra le Marche e l'Abruzzo ci sono problemi a tratti di visibilità. Per quanto riguarda invece le manifestazioni in città, al via in questi minuti a Milano una manifestazione, è previsto un corteo che potrebbe creare disagi in Piazzale Lotto e anche nella zona di Corso Sempione. Sentiremo come va nella prossima edizione tra circa un'ora. Promo 24. Le piccole e medie imprese del Veneto sono le prime a poter usufruire dei vantaggi previsti dalla legge regionale 10/2007 sulla previdenza complementare. Se sei titolare di una PMI con sede nel Veneto e hai investito per favorire l'adesione dei tuoi dipendenti ai fondi pensione, puoi beneficiare dei contributi a fondo perduto che la Regione del Veneto mette a disposizione. Il bando è aperto fino al 12 novembre. Informati subito, visita il sito www.regione.veneto.it oppure telefona allo 0 41 29 19 311. Campagna dell'assessorato al bilancio della Regione del Veneto. Dietro la notizia. Bentornati a Dietro la Notizia, abbiamo con noi ospite Antonio Polito, direttore del giornale Riformista, un giornale che da 3 giorni ha cambiato assetto, ha cambiato grafica, è diventato un giornale che vuole confrontarsi come gli altri con l'informazione generale. Abbiamo una telefonata, Riccardo da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, al direttore. Senta, io innanzitutto mi complimento per il fatto che il Riformista, anche quando non lo leggo e vedo i titoli nell'anteprima della notte su Sky, ha sempre dei titoli diversi, questo è vero. Però quel discorso, mi volevo un po' soffermare su quel fatto, aiutiamo il Partito Democratico, no? Vorrei chiedere al direttore, ma lo stiamo un po' trattando, ormai tutti hanno bisogno d'aiuto, banche, imprese, in questo momento forse è il Partito Democratico che dovrebbe aiutare noi e a quanto vedo, da come si sta comportando per la questione vigilanza, da come si è comportato per il decreto all'Italia, che è dovuta venire Milena Gabanelli, come al solito, a illustrarci le nefandezze di quel provvedimento, con nessun esponente dell'opposizione presente in commissione. Allora, merita di essere aiutato? Oppure, non lo so, oppure forse c'è un problema di opposizione e merita più di essere aiutato qualcun altro, anche nella sua demagogia, nella sua così apparente semplicità l'opposizione. Questo forse può essere anche una prospettiva, volevo sapere che ne pensava il direttore, grazie. Siamo noi che ringraziamo, indubbiamente ognuno può scegliere di stare dalla parte che vuole anche all'interno dell'opposizione, ma su questo Antonio Polito. Sì, ma infatti è così, la mia preoccupazione è che in Italia si crea uno squilibrio grave per cui chi ha il potere, diciamo così, ne ha troppo e chi dovrebbe avere il potere di controllo ne ha poco. Quindi il mio problema riguarda, il mio interesse per tenere in piedi un'opposizione in generale attiva, credibile e rispettata. Quindi poi si può stare all'opposizione in più modi in Italia, c'è l'UDC, c'è Di Pietro, c'è il PD. oggi lo dico del PD perché il PD di queste esposizioni è quello in maggiore difficoltà, e anche perché è anche il più grande partito di opposizione, per cui quando uno vuole pensare a un'opposizione capace di fare da contraltare serio al governo deve pensare a un grande partito, e questo è al momento l'unico grande partito di opposizione che l'Italia abbia. Grazie Antonio Politto, abbiamo Andrea D'Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno direttore. Niente, io ho comprato l'altro giorno il numero del 20 di ottobre del Riformista. Le confesso onestamente, non avrei mai pensato di comprare il Riformista perché fino a poco tempo fa era un po' lontano da quelli. E invece mi sono trovato di fronte a un giornale che ho apprezzato da subito. Tra l'altro l'ho comprato con una motivazione che il 20 di ottobre è il compleanno di mia figlia, quindi gli ho detto ti compro un giornale di 10 anni della tua vita dove ti rimarranno delle notizie eccetera eccetera, quindi un ruolo importante. Leggo l'Italia che dice tutti al muro di Giampaolo Pansa e dico sì, effettivamente è vero, c'è tensione, ce n'è tanta nell'aria, però il mondo non si ferma, non si deve fermare, non posso pensare che si fermi per una crisi economica. Quindi non ritiene lei, direttore, che il ruolo della stampa in questo momento, stampa di destra, di sinistra, di centro, debba essere quello di creare meno tensione, quindi meno acredine nelle persone, cercare di essere un po' più positiva nei confronti dei problemi? Grazie direttore, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie al nostro ascoltatore Antonio Politto. Beh, grazie, sono molto contento di essere uscito in un giorno che corrispondeva al compleanno di una bambina, non avevo pensato a questa possibilità, mi fa molto piacere e tanti auguri. Sì, è vero, io devo dire la verità, il nostro giornalismo fin da quando siamo nati è stato sempre un tentativo di ragionare. Di noi si dice che diciamo, quelli che stanno a sinistra dicono che non siamo abbastanza di sinistra e quelli che stanno a destra dicono che non siamo della loro parte, e questo in Italia purtroppo viene considerato un difetto, no? Non appartenere a qualcuno. Invece io credo, anche per l'esperienza che ho fatto in passato, diciamo in altri paesi, che questo sia un merito di un giornale. Noi, ripeto, non ci domandiamo a chi giova ogni volta che scriviamo un articolo, ma che cosa serve al paese, alla sua modernizzazione, al suo cambiamento. E un approccio più così, meno fazioso, meno legato a schieramenti politici da parte dell'opinione, della stampa, sarebbe un grande aiuto. Ecco, forse direttore Politto, siamo in una fase in cui abbiamo parlato tanto di tramonto delle ideologie, di necessità di essere pragmatici e realisti, però la politica è ancora vissuta come un essere di parte, un essere di schieramento. Forse la faziosità appartiene un po' al mondo della politica, ma che cosa si può fare oltre che il nostro mestiere, appunto, di aiutare a ragionare sulle cose per convincere l'opinione pubblica che in fondo si può dialogare anche sulle cose concrete, sui fatti, sulle riforme da fare? Politto. Bisogna studiare, i giornali devono studiare, andare al fondo delle cose. La questione dell'ambiente, non si decide chi ha ragione a seconda del fatto che uno tifi per il centrodestra o il centrosinistra, si decide, sono scelte pragmatiche, bisogna mettere sulla carta i numeri e valutare costi e benefici di quello che si fa. Quanti danni ne ricevo per l'economia, quanti vantaggi ne ricevo per l'ambiente. Sulla scuola la stessa cosa, diventa una specie di ordalia, no? di scontro biblico tra due forze contrapposte, ma qualcuno anche sulla grande stampa è mai andato al fondo a vedere i conti della scuola e la sua efficacia, la sua efficienza, cosa producono le spese che mettiamo nella scuola in termini di vantaggi e di istruzione per i nostri figli? Ecco, questo è secondo me una carenza, io credo, di poter dire del sistema di informazione italiano. Ecco, possiamo concludere con una rapidissima battuta, Antonio Politto. In Italia c'è libertà di stampa, c'è libertà di dialogo, c'è libertà di parola? Sì. Grazie. L'Italia è una società aperta. Grazie mille, e con questa battuta di Antonio Politto, direttore del Riformista, che abbiamo ospitato oggi, così come abbiamo ospitato ieri Mario Giordano, direttore del giornale, come ospiteremo nelle prossime settimane anche altri direttori di giornali che parleranno del loro modo di vivere la notizia, di vivere le loro scelte editoriali. Si conclude questa puntata di Dietro la Notizia, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio Carmelo Lauricella, vi ricordo tra poco Viva Voce con il ministro del Lavoro e della Salute Maurizio Sacconi, appunto. Appuntamento è per domani.